Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Ogni sera, salvo che non piovesse, la porta dell'episcopio si apriva e Monsignor Dettori, con tutto il capitolo, egli col cordone del cappello verde, i canonici col cordone rosso, uscivano e si avviavano verso i grandi viali del giardinetto per le due ore di passeggiata negli ombrosi viali. Era un'usanza che aveva introdotto lui, o si era introdotta da sé, perché il vescovo era lui. Camminavano con passo canonicale in una fila concava che occupava tutto il viale. Egli alto, padrone in mezzo, ridente, più che sorridente, tra i ragazzi che accorrevano da ogni parte per baciargli l'anello, sotto lo sguardo severo e rispettoso della gente affacciata alla barandilla della farmacia. Ed egli parlava ai suoi compagni di viaggio che ascoltavano in silenzio le tranquille parole. Di che cosa parlava? Non poteva essere che di Dio, ma poteva essere anche della vigna, del raccolto, o delle cose meravigliose che egli aveva veduto in continente, o poteva essere anche un muovere delle labbra senza suono, perché la parola non occorreva alla sua maestà. Così, per un'ora, per due ore, come in una mistica vetrina, su e giù per quel giardino pubblico che era stato non molti anni addietro, prima dell'usurpazione, terra di chiesa, e che per la sua presenza, durante quelle due ore, tornava a diventarlo. Il Signore chiamò a sé Monsignor Dettori in un certo giorno di un certo anno e fu certamente un errore, perché il vescovo si portò appresso il suo mito e i preti di Nuoro ripresero a guardarsi in Cagnesco. Il nuovo pastore, il pastore storico si può dire, fu Monsignor Canepa, che aveva un nome continentale ma era cagliaritano, quindi si presentava già male. Aveva la figura tipica del prete invecchiato dalla vita sedentaria, la faccia di latte cagliato, l'espressione era di prete mele, la sottana cadente ad angolo ottuso sul ventre appuntito, la voce nasale, lenta e assonnata. La crocetta non precedeva soltanto il suo nome, che era Luca, secondo l'usanza dei vescovi, ma la sua stessa persona, quando saliva senza scampanio l'erta della chiesa o andava a inginocchiarsi davanti al cimitero dove riposavano i diocesani che lo avevano preceduto nel transito, poiché egli era incredibilmente pio e aveva un particolare culto per la Madonna, alla quale dedicava ogni anno nel giorno della festa di Gonari una lunga omelia. Vi lavorava per mesi, alzandosi presto al mattino in una stanzetta che dava su una fitta siepe di fichi moreschi e nella quale aveva composto in buon ordine i libri di teologia che aveva portato con sé. Monsignor Canepa aveva un solo torto, quello di non essere ricco. Peggio, aveva una fitta schiera di nipoti, lasciatigli sulle spalle da un fratello e da una sorella che gli erano morti e ai quali aveva dovuto provvedere dando lezioni di latino quando era prefetto al seminario di Cagliari. Tanti ne aveva sistemato alla buona, gliene restavano quattro, i più giovani, e con essi, non con fratel Giossanto o fratel Baingio, era sceso dalla carrozza al quadrivio di Nuoro. Egli aveva il torto di essere povero di fronte a Monsignor Dettori, di venerata memoria, di fronte al capitolo e ai preti, di fronte a Nuoro, da Don Pasqualino a Dirripezza, perché anche ricevere l'elemosina da un povero è meno onorante che riceverla da un ricco. La mensa vescovile era misera, colpa di quei preti che all'epoca dell'incameramento avevano attribuito un valore modesto ai beni della Chiesa, credendo di sfuggire alla rapina, e invece su quel valore erano stati fissati gli stipendi. E con quella mensa, a parte il carattere di Monsignor Canepa che dipingeva omelie, come diceva per ischerno canonico Floris, c'era poco da tenere banchetti e anche poco da fare elemosine. Così l'episcopio, con le sue mura rosse e le palme svettanti, tornò ad essere quella casetta di Seona che sempre era stato prima che Monsignor Dettori lo riconsacrasse. Una sola cosa fu conservata del tempo felice e fu la passeggiata serale dei canonici nella lunga fila piegata ad arco col vescovo al centro. La verità è che essere vescovo a Nuoro non era una cosa facile. La città santa comprendeva una dozzina di canonici che costituivano il capitolo e 6 o 7 preti disseminati a San Pietro e a Seona. C'era una sola parrocchia e parroco era il canonico Monni, che si avviava da tempo immemorabile alla novantina, col suo piccolo corpo trasparente, quasi albino, e aveva ricche parentele paesane che confluivano nella sua canonica aggrappata a Santa Vania come su un terreno neutro. La vecchia Camilla, con gli occhi devastati dal tracoma, serviva Dio attraverso il suo padrone e teneva per lui i contatti col mondo esteriore, riportandogli tutte le novità che egli vagliava nel silenzio della sua anima, perché canonico Monni non usciva di casa, nemmeno ormai per gli interri dei ricchi, ma si teneva in costante comunicazione col mondo. Canonico Monni aveva infatti una missione da compiere. Per quanto da 50 anni non fosse tornato al suo paese sperduto tra le montagne della Barbagia, egli teneva alle fila dei destini di tutti i nipoti e i nipoti dei nipoti. Appena nati, glieli portavano fino a Nuoro perché li benedicesse, e la sua doveva essere una lunga benedizione che li mandava dal paese a primeggiare nel capoluogo, a farsi o tentare di farsi nuoresi. Quanti ne aveva sorretto con le fragili mani, e ora che era vecchio gli toccava l'impresa più grossa di tutte, nella quale non si sarebbe messo se avesse ritenuto di poter essere impari a qualche cosa. Si trattava di questo. Il dottor Porcu, che era un suo pronipote per parte di madre, il pezzo forte della stirpe, o almeno di quelli che avevano studiato, si presentava candidato alle elezioni politiche. Quel benedetto uomo del Papa lì a Roma si era finalmente deciso a chiudere un occhio sulle fregole politiche dei cattolici e il dottor Porcu, già attempato, era sceso subito in lizza con una schedina del collegio uninominale che aveva per simbolo, ad uso degli analfabeti, un aratro. Ma non era facile agganciare quei miscredenti di nuoresi, anche se le amicizie erano potenti, e canonico Monni aveva bisogno di tutti i tentacoli della sua perpetua, che dal mercato o dalla fonte gli riportava i segreti delle anime più di quanto non potesse carpirne nel confessionale. La partita era dubbia, dubbia. Molto più fortunato era l'altro decano dei canonici, l'arciprete Pirri, che viveva in un'ala dei vasti dominari dei Corrales nel cuore di San Pietro, in cima alla breve salita da Santa Croce, una delle chiesette mezzo agresti di Nuoro, con la facciata nuda e la nicchia della campana, come le Grazie a Seona e come era stato il convento. Canonico Pirri aveva una pinguedine rassegnata, le guance cascanti nel largo viso marrasato, gli occhi ancora scuri nel bianco ingiallito dagli anni. Anche lui non usciva più. Il suo viaggio quotidiano era dal letto alla poltrona, dove sedeva, con i piedi sul legno del braciere e il tricorno in testa. Solo a guardarlo si capiva che nella lunga vita non aveva mai sorriso. Tutte le mattine, dalle 9 alle 10, i nipoti e i pronipoti, che non erano all'ovile, gli passavano davanti, cercando di indovinarne i pensieri. Perché egli governava dalla sua stanza arredata di un solo crocifisso tutta la dinastia dei Corrales e aveva, come canonico Monni, una missione da compiere. Ma non si trattava di elezioni o altre sciocchezze. I Corrales, i suoi nipoti e figli dei suoi nipoti, erano, come abbiamo detto, una banda di predoni e il fiero istinto si era conservato anche negli altri discendenti, molti dei quali si erano laureati e imborghesiti. Qualcuno aveva anche abbandonato il nido di San Pietro e si era infiltrato nel corso. Per questo egli si era fatto prete, perché gli uomini hanno bisogno di una legge e la legge non è la carta scritta che fa ridere, è un uomo che non ti giudica ma ti indica i confini delle tue azioni. Canonico Pirri, prete onesto e incapace di male, aveva capito la sua funzione e l'aveva assolta con severa dignità, acquistandosi il rispetto di tutti i parenti, anche perché era molto ricco di suo. L'arciprete non era uomo di grandi letture, ma tra una riga e l'altra del breviario meditava profondamente ed era giunto presto alla conclusione che il libero arbitrio non esiste. Non era questione di filosofia, egli ne faceva l'esperienza in tutta quella sua gente, forse anche in se stesso. Quei nipoti e pronipoti non avevano bisogno di confessarsi. Bastava che gli passassero davanti, come facevano la mattina, perché egli sapesse quello che avevano fatto nella notte. Ma sapeva anche che sarebbe stato inutile o addirittura imprudente dare consigli. D'altra parte c'erano i frutti di quelle ruberie, perché egli vedeva la famiglia, o meglio le molteplici famiglie che si erano formate e lo riconoscevano come protettore perché vicino a Dio, comprare case e tanche e armenti, arricchirsi insomma, e anche questo aveva la sua arcana ragione. Ciò che egli doveva fare era evitare gli scandali. Più di una volta aveva pagato del suo qualche disgraziato che era venuto a minacciare, ma erano soprattutto gli interni rapporti che dovevano fasciarsi di silenzio, e qui si ricordava sul serio di essere prete. Seduto coi piedi appoggiati al legno del braciere, divorato dal mal di cuore che gli impediva di coricarsi, Canonico Pirri accarezzava la gatta dai peli abbruciacchiati e pensava con terrore al pericolo che aveva corso l'intera famiglia con la tenebrosa faccenda del testamento dell'avvocato Orecchioni. Quello era stato il suo capolavoro, che giustificava la sua vita, anche se da quel giorno era cominciato il maledetto affanno che gli toglieva il sonno. L'avvocato Orecchioni, zio Mario, per il nepotame dei Corrales, era avvocato per modo di dire, perché aveva in tempi preistorici preso la laurea in legge che gli aveva consentito di vestirsi da signore e di non fare nulla dalla mattina alla sera. Non era una cosa strana per Nuoro, che era piena di avvocati che non avevano mai visto un codice e non era chiaro di che cosa vivessero. Per questo l'avvocato Mario aveva bellissime tanche che erano l'invidia di tutti i parenti e tirava cospicui fitti. Piuttosto il dottorato aveva avuto un singolare effetto, quello di estraniarlo dal parentado e renderlo quasi misantropo. Abitava sempre a San Pietro, in una casetta rustica che ancora recava le tracce dei suoi avi pastori, curato da una serva che aveva ereditato con la casa. Costei era stata giovane e aveva fatto un bastardo, anzi una bastarda, che ora era una giovanetta bruna, piena di ingenue promesse, ed era la sola che l'avvocato ammettesse in casa per dare una mano alla madre. Del resto, il padrone nemmeno pareva accorgersene, sebbene a poco la ragazza si fosse messa in confidenza e lo chiamasse addirittura zio. Egli continuava a leggere il giornale seduto sulla panchina di granito sotto il grande fico che ombreggiava tutto il cortile e continuava a fare la sua passeggiata verso il tramonto sulla strada polverosa di Orosei, orlata di fichi moreschi, senza scambiare una parola coi contadini che tornavano dalla campagna a cavallo, le bisacce ricolme dei cestini di frutta. Così un giorno uguale all'altro, ma un giorno non dovette essere uguale, perché la ragazza sparì. Nessuno ci fece caso, tanto più che a 17-18 anni le ragazze di Nuoro sparivano tutte. Andavano a Tunisi, dove le paghe erano più alte, in realtà per farsi senza vergogna il bastardo. Dopo qualche tempo, infatti, la ragazza tornò con un bambino appresso, al quale aveva dato il nome del suo vecchio padrone, come era l'usanza. Ma il Mario Grande non volle in casa né il Mario Piccolo né sua madre. E tutto finì così. Storie vecchie, storie vecchie. Il tempo intanto era passato e il pizzetto dell'avvocato si era tinto in bianco. La madre del bambino si era sfiancata, come tutte le donne che andavano al fiume, giù a Caparedda o a Mughina, a lavare i panni col cesto in bilico sul Cercine, e il piccolo Mario era diventato un muratore o un fabbro, come tanti altri. Del resto tutti erano diventati vecchi a Nuoro e nessuno ricordava più nulla, anche perché non c'era nulla da ricordare. Zia Luisa, la nonna ormai di tutti i Corrales, che era stata giovane e bella, sedeva all'angolo della porta carraia, col fazzoletto rovesciato sulla testa e gli enormi seni debordanti dal corsaletto. Aveva sulle ginocchia una canistedda e, con mano esperta, separava il grano dai sassolini che si erano mescolati nell'aia. Ma il suo pensiero era altrove. La tanca di lardine di Mario, che era suo cognato, confinava con la tanca loro, cioè di suo marito. E del resto tutti i domini dei Corrales erano vicini, perché venivano da un unico ceppo. Quella tanca era una meraviglia, anche se lei non l'aveva mai veduta, e Mario era vecchio ormai, come si era vecchi in quel tempo passati i 60. Che cosa ne avrebbe fatto? Egli era solo come un fungo. E la solitudine era una cattiva consigliera. Sarebbe stato capace di lasciare i suoi beni all'ospedale, un vero tradimento, a meno che... Ma questo non era possibile. C'erano state, sì, quelle dicerie tanti anni fa per quella ragazza che era andata a Tunisi, ma tutto era finito nel nulla e Mario era troppo avaro per privarsi del suo, anche dopo morto. Forse bisognava vigilare quella serva che da troppi anni aveva con sé. Quella era una sfinge. Non c'era verso che aprisse bocca e nemmeno la salutava quando la incontrava. I pensieri salivano mentre la canistedda col grano restava inerte sul suo grembo. Per fortuna Mario era ancora in gamba e c'era tempo a pensarci. Invece Mario aveva la morte appresso, come ce l'abbiamo tutti, e questa arrivò una sera verso l'imbrunire, con una polmonite che allora, senza la penicillina, lasciava ben poca speranza. Subito si sparse la notizia e finalmente le varie generazioni dei Corrales poterono penetrare nella casa. La serva non poteva impedirlo perché senza il padrone non contava niente. Mai si videro tanti dolenti come intorno a quell'inutile moribondo. Natale Cherchi, detto bersagliere, poiché i nomignoli si moltiplicavano nella ormai vasta famiglia dei Corrales, era il più disperato di tutti. Il rantolo usciva dalle finestre, si riversava nell'orto tra le foglie ingiallite del fico, usciva tra le casette del vicolo dove i pastori seduti sulla soglia lo ascoltavano impassibili. Finalmente cessò e l'avvocato Orecchioni lasciò la sua casa e le sue tanche senza padrone. Un vasto silenzio occupò la povera stanza e il morto non era il più silenzioso di tutti. Finalmente Pilime Corrales, che era dei più anziani, ritrovò la voce per chiamare la serva. Questa emerse dal buio con gli occhi lucidi di pianto, ma duri e maligni. Il vecchio pareva sfuggire il suo sguardo, simulando un'interna commozione. «Il tuo padrone è morto», le disse, «e noi restiamo. Egli sta ora scontando. Noi aggiungiamo, tu sei stata una serva fedele e non sarai dimenticata, qualunque cosa egli abbia disposto». Poi, dopo una lunga pausa. «A proposito», soggiunse, «sai niente se ha lasciato qualcosa?» La vecchia si impietrì, si sentiva sola e indifesa e doveva stare attenta alle parole. «So», riprese lentamente, «che prima di ammalarsi ha cercato una penna e un calamaio e si è messo a scrivere di sopra, al tavolino del salotto. Cosa abbia scritto non so, perché io non so leggere». Quella gente era troppo abituata alla menzogna per non capire che mentiva, ma fu Bersagliere che salvò la situazione. «Non è questo il momento di pensare al domani», esclamò alzandosi in piedi. «Ora bisogna pensare a onorare il morto, che lo meritava. Povero zio Mario, anzi, scusate un momento, vado a mettermi la cravatta perché sono corso qui come un matto appena ho saputo che stava male». Uscì chiudendosi la porta, salì senza far rumore la scaletta di legno e si ritrovò nel salotto. C'erano davvero sul tavolino alcune carte ingiallite, ma erano carte di conti. Le sfogliò rapidamente ed emerse una busta chiusa con su scritto «Mio testamento». Il cuore gli batteva forte, l'aprì e lesse: «Lascio tutto il mio al mio figlio naturale Mario, nipote della mia serva». Nient'altro, ma era quanto bastava. Piegò lentamente la busta e se la mise in tasca, donde aveva tratto una vecchia cravatta che vi aveva messo prima di uscire. E, incravattato, tornò nella stanza del morto, davanti al quale si inginocchiò piangendo disperatamente.